generazione di b-boys che non mangia hot dog ma polenta e vassoi, che non dice yo è più che largo, veste bene, niente Marco cagonate ma comodo è come viene. Ascolta la musica che stimola l'orecchio, la mente ed il cuore non si guarda più allo specchio. Tanto il vecchio quanto il nuovo apprezza l'elaborato, l'ho studiato, la stronzata più grezza, sempre all'altezza della situazione, pronto all'azione, va dalla sostanza più che al nome, più che alla commercialità o meno del prodotto, alla qualità intellettuale o musicale che sta sotto, all'arte, alla spontaneità, più che la tecnica, più che le parole, grosso il solo senso dalla metrica, valorizza la cultura dalla quale viene, rispetta le altre e non finge di vivere in America. Nuova generazione di b-boy sulla strada dell'evoluzione, se vuoi tutta le tue mani in alto se ti piace, brucio il microfono perché ne so capace. Nuova generazione di b-boy sulla strada dell'evoluzione, se vuoi tutta le tue mani in alto se ti piace, brucio il microfono perché ne so capace. Nuova generazione di b-boy sulla strada dell'evoluzione, se vuoi dammi la tua mano che ti porto indietro, ti faccio vedere ciò che succedeva un tempo. Come un MC si dilettava a intrattenere, le basi erano semplici ma le mosse erano vere. Una volta era cultura, mi ricordo, adesso è come dire un cieco guarda muto, parla un sordo anche se a dire il vero non mi ricordo un cazzo, perché allora non c'ero, pure ero solo un ragazzo. Un rapper disse l'hip hop e l'arte di essere se stessi, alla faccia di sti cessi che fanno versi e gesti sotto mentite vesti. La teatralità ha sempre fatto parte dell'acqua, ma questi sono mestri disonesti con loro stessi, che diresti se ti dicessi di metterli da parte dagli arresti. Che scopro le carte, per me l'hip hop è arte, scratch, basi campionate, liriche tirate, pregiate anche se non sono cantate, sono monologhi fatti di espressioni recitate, poesia, idee compresse che prendono vita su un beat. Bastava un tempo in quattro quarti per dar vita a una hit, I repeat, bastava il passato perché per quanto mi riguarda ho trasceso ciò che è stato. Nuova generazione di b-boy sulla strada dell'evoluzione, se vuoi tutta le tue mani in alto se ti piace, brucio il microfono perché ne so capace. Nuova generazione di b-boy sulla strada dell'evoluzione, se vuoi tutta le tue mani in alto se ti piace, brucio il microfono perché ne so capace. Es na bagas en ik nummer of ark in los drubui. Es na ik met die soort lani namens de las dub. Uit de oves en ois dulo vele de darts en lucio bibi de nois dar en es na vol. Es na bagas en ik nummer of ark in los drubui. Es na ik met die soort lani namens de las dub. Uit de oves en ois dulo vele de darts en lucio bibi de nois dar en es na vol.